Grazie. Bene, io invece sto andando Plaza Grazie. Bravo, bravo compagno. Lo so, hai ragione, ma sempre ricordatelo. Non ero partito già a tornare indietro, Alessandro. Avevano dimenticato la busta con tutti i documenti e le varie istruzioni per montarla, ma vaffanculo, va. Mi scusi sto cazzo, stavo che non ero entrato. Attento, briciola, su, cambiamo, su. Se è giusto cucinato bene, altrimenti è un casino, capito? Ma andava, non va bene, capito già? Beh, se lo zimino non è cucinato bene, non è croccante, ti prendi tutto lo schizzo del grasso, va via, di nausea. Vabbè, adesso già l'ho gustato, dai, ero da molto che non ne mangiavo. Beh, la macchina, tutto ok? La macchina, sì. Per il momento già a posto. Oggi sono andato a recuperare un cerchio, c'avevo la gomma di scorta, solo la gomma però. Adesso vado a piazzare la gomma come si chiama? La gomista. Adesso c'è anche la ruota di scorta. Ora come ora mi manca quel piano che c'è dietro, visto con il coso, con il. pizzeria. Il pane del legno. Capito. Il pane del legno. Ah, ho capito. Quello, vabbè. Quello lì lo puoi trovare al Ferruvecchio. Molta gente se lo prende al Ferruvecchio, te lo regalano addirittura, l'hanno regalato l'amico mio. Vabbè, c'è che me l'hanno regalato. Adesso sto nascendo, te lo metto da parte, capito? Cavagava. Da Danilo, che già te lo busto. No, vabbè, ci sono già andato da Danilo. Cavagava. Vabbè. E come motore come tu? Provata l'hai a tirarlo. No, va bene, va bene. E allora già va bene, dai. Almeno sei autonomo, devi stare domanda a passaggi, chiedo che dà, se piglia la tram. Vabbè, è una spesa la macchina, Vabbè, per il momento non sono una spesa, quando a gennaio. Il bollo al maggio del prossimo anno. Io su benzina, adesso giovedì devo chiamare il meccanico per cambiarmi gli ammortizzatori davanti. Vediamo un po', dai. Vediamo un po'. È così, è un altro pezzo che deve cambiare. Ma devi chiamarlo. E niente, poi già, per il momento mi tengo quella pure, se ho la possibilità, come si dice, se ho la possibilità mi la cambio. Va bene. Tutti abbiamo fatto così, e io ho cominciato con la 595 Giannini, e poco camminava. Immagino. Faceva 130 nella salita di Marini. Sono salito nella salita a 130 e ci ho passato un Alfa Subic, allora c'erano le Alfa Romeo, quelle vecchie. Un Alfa Subic, ma baldato, come ti dico, che cosa vai? E il motore della Ferrari, solo che faceva 9 al litro. Era una macchina da gara, aveva gareggiato anche. Eh beh, certo, consumava. E 9 al litro faceva, ciucciava un bel, però camminava come macchina. Poi ho bruciato la guarnizione alla testata, e la testata, siccome che era in alluminio, non faceva. Adesso se ti metto una testata normale non rende più come macchina. Allora, ho preso l'Oversata, mi sono preso 127. Ah beh, certo. Eppure quella camminava, in spunto con 127 era una bomba. Poi vabbè, il muro di Roberto Meccanico, quello che fa angolo, si è baciata con quel muro. Sì, ma l'hai fidetto. È una strozza, me ne è uscita allo stop senza guardare. Ci per farmi male devo andare a Olbia, cassina di una gana. A Olbia devi andare, ma in macchina vai. No, furgone. Ah, lavoro. Ehi, fanno lavoro. Cavagava. E vabbè, interessante che ce ne siano. Ho un posto o l'altro, vanno tutti bene. Beh, certo. Io non sono ancora andato una volta al mare a Cicli. Io ormai sono andato due volte. Sì, due volte, a tre soffitti, e poi piscina due volte. No, io proprio nulla. Nulla, perché ho mille cose da fare. Un giorno la spesa, un giorno andare a pagare quello, l'altro giorno andare in ufficio, e queste cose vogliono fatte, a me non me le fa nessuno, se non me le faccio io. Lo so, aspetta, c'è un messaggio, un attimino, aspetta. KK, un casino è già, ragazzi, un casino. Mi sono preso questo orologio carino già, di quelli per andare al mare in plastica, bello me. Cavolo, 13 euro, ma bello, bello, bello, fa 50 metri di profondità, ma 50 metri non fa, vado così, farò un metro, che se trovo. Che bello, fa la luce, bello, sì. Infatti mi metto quello lì adesso. Devo trovare, ma lo metto per uscire. Proprio carino, leggero, bello, proprio bello. Come l'ho visto. E poi a me al nero, c'è l'arancione, c'è la verde. E poi c'è questo qua il nero. Il nero lo abiti con tutto. E dove l'hai preso? Da Decathlon. No, io ho il Citizen, quello praticamente che funziona con i raggi solari. E quello, l'Eco della Citizen. Quello lì va molto bene, ce l'ho tanti anni, è un crono, è bello anche come lo uso. Sì. E lo uso per tutto, anche per fare il bagno, è subacqueo, fa tutto. Bellissimo, però adesso magari col tempo si sono ossidati sicuramente i tastini per il crono e non mi funziona più, è duro, non capisco perché, si sono induiti, sono l'orologio non funziona il crollo, ma comunque già va lo stesso, funziona l'orologio. Era la bicicletta, non è di batteria, né di uso. Sì, vabbè, già, questa è di batteria, ma la batteria dura. Sono quelle batterie, quelle a tampone, quelle che si mettono nei computer, quelle grandi da 3 volt. 3 volt, 3 volt, vabbè. 3 volt? 3 volt. Vols, è 3 watt e la F. Sì, hai 3 volt. 3 volte. Sì, sì, 3 volte. Ma non sta più entrando nessuno, io stavo provando a accendere, se vediamo un po' se, perché stavo cantando la verità e poi ho smesso per far raffreddare un po' il telefono, perché se no si scalda troppo. Beh, certo. Oh, sono arrivato a 5.035 follower su TikTok. Sì, anche io ne ho tanti, anche io ne ho. Ah, infatti a me non mi fa più mettere i segui, io non posso seguire più a nessuno perché ho superato il limite. Aspettami, dici, anche tanto dopo devo anche chiudere già, perché devo uscire, devo andare a recuperarmi dei soldi e così passo dopo di riprendo i pizzette. Vabbè, dai, vai, vai, tranquillo, non c'è problema. Adesso mi rimetto il microfono com'era, perché sempre mi coglierà a basso. Vabbè, dai, ci sentiamo, Lu, stammi bene. Fatti sentire nel canto. Io ho provato a accendere, che qua non c'è mai nessuno. Alla fine mi vedo tutto. Perché? Ah, non c'è mai nessuno. No, faccio un break, non risponde mai nessuno. Se vuoi faccia, un casino. Ho speso anche i soldi per fare l'impianto in macchina, tutto quanto, ma se avevi saputo non l'avevi fatto. Io anche vai qua, vai là, prendi quello, prendi quell'altro, è un casino. Un casino già, non ho tempo di stare a casa. Poi, vabbè. Poi sai che c'è anche il caldo a casa, che ci sta vivendo, ma stanno, ci stiamo di più. Di la verità che c'è impegni mondani. Cosa già? Ho detto di la verità che c'è impegni mondani. Ma la macchina è ferma praticamente, mi viene male, dove vado io non c'è parcheggio. La lascio lì a casa, scendo in bici. Vabbè, tu c'hai anche quello. Aspetta un attimino. Oh, sta, prova. Hola. Yes. Va bene. Va bene anche così. Con la lamba ci va benissimo. Andave. Vabbè, comunque lui. Andave, lo mattessi, dai, anche in bici adesso c'è caldo, si può fare. Sì, a voglia. Tutto quando piove, allora già ci vuole la macchina, allora già stai bene in macchina. Guarda su Facebook cosa ho messo, vai. C'ho il telefono in carica, ce l'ho in carica il telefono. E dopo controlla, va. Via, cava cava. Va bene, dai, se devi andare vai, io non ti fermerò, il tempo passerà. E adesso vado a prendere 2 pizzette, già me la scendo al circolo, vedo vuole fare dei soldi e... niente, poi boh, devono fare un siccome devo lavorare a fare il 14, devo fare i panini lì al corso, se vuoi passare c'è la birra anche, panino 5 euro, il bicchiere della birra 3 euro, mi è stato 50, boh, forse devo 50 da 0,30. Se vuoi passare, tanto gli sto facendo i panini, vai tranquillo, sei mani buone, mani pulite. Ma con quello là sei sempre? No, al circolo. Ma tu eri col circolo del corso, quello del corso basso. Esatto. E io lì sono andato a farmi lo zimino. Le l'ha chiesto a che circolo siete, siamo al corso in basso. C'era quella signora robusta alla cassa. No, non è quello. Non è la corsa in basso, il nostro è praticamente vicino all'hotel. L'hotel del corso Vittorio Emanuele. Ah, allora era un altro, dai. Va bene, là. Comunque c'è la Germania di Rumattesi, poi me ne sono andato in giro, non ne sono stato a Torino. Ho mangiato e poi me ne sono andato in giro. Perché cosa c'è al corso? Festa? No, non c'è niente. E come mai fate i panini? Qui sono le candelieri già. Ah, per la festa dei candelieri, allora qui sta vedi. Ho capito, dai. Non lo so se ci vado, io ci vado ogni anno, ma prima era più bello, si faceva l'arrostita in via 25 aprile, insomma era diverso, adesso è tutto tanto strano. Lo so, cosa vuoi fare, purtroppo. Oh, era un sindaco con tutta la giunta, la permesso, scusate per farsi vedere, no, scusate, permesso, poi croccante è andato. E io ho portato io lo zimino, cannaculo e ricciato. No, mi l'aveva dato il mio di merda. Sì, no, va. Come hanno fatto quel professore dell'università, mi hanno fatto i bignì con la cacca dentro, se l'ha mangiato, gli siete pure in giornale. Vabbè. Vabbè, dai, già. Ma anche quella ti devo salutare, dai. Già. Penso che domani sera non esco, perché di sera non fa uscire. Magari le chiacchiere più ce le facciamo. Vabbè, dai, ci sentiamo, Lu, stammi bene, ciao ciao. Ciao già. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ecco, si può fare. Ora, 1, 2, 3, 4.